17 agosto 2010, ore 23:59. Finalmente ho capito qual è il rumore di una vita che ricomincia. È questo qua. Oh! È l'eco di una casa che hai venduto, che hai svuotato e che stai abbandonando. Svuotandola però, ho anche trovato finalmente qual è il rumore di un pezzo di vita che ritorna. È questo qua. È un foglio protocollo di 25 anni fa. È scritto a mano e l'intestazione dice: tema, le mie vacanze. E in alto a destra, Matteo Caccia, classe quinta B, 16 settembre 1985. Provate a riflettere su tutti i posti in cui siete stati oggi. Casa vostra, la metropolitana, il treno. Il bar, la scuola di vostro figlio. L'ufficio, la riunione delle 11, quella delle 3. Facebook, il sito delle notizie, quello del meteo. La banca, la posta, la palestra, l'aperitivo e di nuovo a casa. Ma voi, esattamente, dove siete? Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:09 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e io sono qui. È bello sapere che si torna dopo 2 mesi e non è cambiato niente. O meglio, qualcosa è cambiato. Ad esempio c'è Vittoria Mussini al posto di Laura Faggine in redazione, però nonostante Vittoria sia di là dal vetro, anche Laura è venuta a farci compagnia, oltre a un folto pubblico di là dal vetro. Però diciamo, le cose fondamentali sono sempre quelle: le frequenze di Radio 24, la splendida serra del Sole 24 Ore, che è sempre trasparente e calda d'inverno e fredda d'estate, e per non parlare della mensa del Sole 24 Ore, che è la solita ammazzata sullo stomaco. Buongiorno a tutti. 800240 024 349 238 6666. È finita, Dico l'altra, è finita. Visto che durante l'estate ogni tanto arrivavano messaggi, erano due i tipi di messaggi che arrivavano. Allora, hai venduto tutto, sì o no? E la risposta è sì. E la seconda domanda invece: hai realizzato tutti i tuoi desideri, sì o no? E la risposta è ancora no, però mi prendo del tempo per farlo. Vi ricordo i numeri sono 349-238-6666, 800240024, e poi c'è una mail che è chiaramente io sono qui, @radio24.it. Avete sentito il primo pezzo che è andato in onda prima ancora dell'intro e della sigla? È un diario, mi sono preso questo vizio, che non so quanto vi piacerà, che è di portarmi dietro un registratore e registrarmi degli appunti. Quella cosa l'ho registrata il 17 di agosto. Era a metà agosto, avevo appena venduto casa. E sapete quando vendete la casa? Vabbè, in generale, quando traslocate. Magari non avete mai venduto una casa, però quando traslocate e vi liberate della roba, il più la buttate via, il più la portate nella casa nuova, di solito trovate delle robe che non avevate nemmeno in mente, cioè che non vi ricordavate nemmeno. Ecco, io ho trovato questa cosa qui. Pietro, puoi abbassare un pelo, che sai, Bonini ci tiene. Ah, neanche Bonini è cambiato, giusto per... neanche Genovesi. Sempre su, ragazzi, sempre su. Insomma, questo pezzo di carta è un tema. È il tema delle vacanze, avete presente? Si ritornava a scuola e... cosa hai fatto nelle tue vacanze? Eccolo qua, ve lo leggo. Tema, vacanze delle elementari. Tema, le mie vacanze. Svolgimento. Quest'estate ho partecipato al GREST, il gruppo estivo dell'oratorio. È durato un mese. Mi sono divertito anche se abbiamo perso il torneo di calcio. Poi sono andato in montagna con i miei nonni, ma la vera estate per me comincia quando andiamo al mare. Il 28 luglio siamo partiti per l'isola d'Elba. All'isola d'Elba c'è Filippo, il mio amico, che è il figlio del direttore dell'albergo dove io, mia sorella e i miei genitori risiediamo durante le vacanze. Con lui la cosa che facciamo è andare con il canotto a cercare le stelle marine sul fondo sabbioso del mare. Si vedono appena perché si mimetizzano, però quando le hai prese puoi farle seccare e portarle a casa o regalarle a qualcuno. La seconda settimana è arrivata in albergo una famiglia di Vicenza con 3 figli che si chiamavano Olmo, Clelia e Petra. Petra era bionda e bella e piaceva sia a me che al mio amico Filippo. Siamo diventati amici di tutti e 3 i fratelli, ma a me e Filippo piaceva Petra anche perché Clelia era piccola e Olmo era un maschio. L'ultima sera prima di partire ho regalato una stella marina a Petra e lei mi ha dato un bacio sulla bocca. Non sapevo se dirlo a Filippo oppure no. Alla fine ho pensato che dovevo essere sincero perché era un mio amico e quindi gliel'ho detto. Lui si è arrabbiato non mi ha nemmeno salutato quando siamo partiti. Ecco, questo è quello che mi è successo quest'estate, e visto che qui a scuola mi hanno insegnato a trovare una morale alle cose, io penso che la morale di quest'estate è che non bisogna dire sempre tutta la verità. Cioè, bisogna dirla, ma non tutta tutta. Tranne ovviamente che ai genitori e al prete. Matteo Caccia, classe quinta B, 16 settembre 1985. Questa è la storia. La storia è che dopo aver venduto tutto e dopo non aver avuto niente, poi vi racconterò come sta andando adesso la mia vita in questi giorni, sono ospite da amici, insomma è un piccolo delirio, però l'unica cosa certa è che alle 16 siamo qui. Leggendo questo tema io ho capito che c'è questa, come dire, questa diatriba tra me e me che riguarda proprio la menzogna e la verità, che riguarda il raccontare storie vere e raccontare storie inventate. E quindi io ho deciso che oggi vi farò una confessione, e la farò perché ho preso una decisione, è una decisione molto chiara, che adesso vi racconto. La cosa che però vi chiedo di fare è di raccontarmi all'80024 0024 l'ultima bugia che avete detto. Io oggi vi spiego che cosa sto per cominciare a fare. Farò una confessione e me l'aspetto una anche da voi. 80024 0024 l'ultima bugia che avete detto. Io sono qui. Sapete quante bugie ognuno di noi dice in media nella sua vita? Tra le 10 e le 15. Ogni giorno. Le statistiche sostengono che le donne ne dicano due in più degli uomini. Questo però in sostanza non fa nessuna differenza. Ci avete mai pensato alle bugie che riempiono le vostre giornate? Quando le dite? Perché? Se fate fatica a dirle oppure ormai ci siete abituati? E non parlo solo di bugie enormi, di cose riprovevoli. No, parlo di piccole menzogne, di omissioni, cose che facciamo quasi istintivamente per proteggere noi o chi ci sta vicino. Cose minuscole. Frasi dette a mezza bocca, tipo «Scusa, guarda, ti richiamo dopo che adesso ho da fare». Oppure «Questa cena è stata ottima». Ma anche cose più grandi. «Sì, ti amo anch'io». Esistono delle classifiche secondo cui le bugie più frequenti sono «Mi spiace, ma non ho sentito il telefono». «Scusate il ritardo, ma è stato per via del traffico». Per le donne invece la menzogna più frequente pare essere «No, guarda, questo vestito non costa neanche tanto». Però sapete qual è la madre di tutte le bugie? Quella che diciamo più di frequente è «Sto bene, grazie». «Come stai?» «Sto bene, grazie». Ed è strano però, perché l'imperativo che io sento urlare da ogni angolo è quello dell'autenticità, quello dell'essere così come si appare. Tutti, dai protagonisti delle trasmissioni TV, quelli della politica, tutti ci tengono a far notare quanto loro siano aderenti all'immagine che danno di se stessi. Insomma, io non fingo, io sono così come mi vedete. Io credo che si possano fidare della mia parola. Te lo giuro. Io, per quello che ho fatto, non mi interessa andare alla Juventus. Bisogna sgombrare il campo dalle bugie. Te lo giuro. Per non parlare poi dei telegiornali, della carta stampata, dei programmi di approfondimento, tutti dicono la verità, sempre e solo la verità. La verità è un'ossessione, è un concetto sovraesposto, ma che in fondo è sottoutilizzato. Tutti mentono, però nessuno si definirebbe mai un bugiardo. Anche perché qual è il limite oltre al quale una persona può essere definita un bugiardo? Due bugie al giorno? Cinque al mese? 50 in un anno? Ecco, allora fate così. Provate a fare questo sforzo. Ora, in questo preciso momento, dedicate 30 secondi a cercare di ricordare le ultime bugie che avete detto oggi. O ieri, se non l'avete ancora fatto. Al vostro capo, a vostra moglie, al collega in ufficio, al barista, alla signora delle pulizie, al fidanzato, fratello, figlio, genitore, al telefono, via sms, a voce, via mail, su Facebook. Pensate a quello che avete detto, a quello che avete omesso, o a quello che avete detto solo in parte. Ecco, adesso sommatele all'interno di una giornata, poi di una settimana, un mese, un anno, pensate a quante bugie avete detto e direte nella vostra vita. Fatto? Eppure? La vostra vita va avanti, no? Più o meno agevolmente, pure va avanti. Anzi, forse va avanti proprio grazie a quelle bugie. E adesso provate ad immaginare la vostra vita senza nemmeno una sola menzogna. Cosa accadrebbe se oggi decideste di cominciare a dire sempre e solo la verità? Io ci provo. Da oggi. Anzi, da questo momento. E comincio con una confessione. E voi invece? Confessatemela. Qual è l'ultima bugia che avete detto. Io comincio da qui. Ho deciso di farlo a partire da questo momento, dalle 16:19 di lunedì 6 settembre 2010. Io dirò sempre e solo la verità. Che detto così può sembrare facile, ma ci ho pensato, guardate, ci ho pensato tanto prima di farlo. Vi assicuro che non lo è per niente. Ma vi faccio un esempio. Immaginatevi di dire a vostra madre che la sua pasta al forno non è la più buona del mondo, a vostro fratello che sua moglie non vi piace, al vostro barista che il caffè stamattina era veramente cattivo. Pensate di dire al vostro capo che è un minorato mentale, a vostro padre che siete gay. Pensate di essere a casa di amici e di non sorridere di fronte alle foto delle vacanze. Pensate di non fingere di non sapere che marito e moglie si tradiscono. Supponete di andare ad un primo appuntamento e ammettere subito che l'altro non vi piace. Provate a pensare di non dovere mai più fingere un orgasmo. Che vita sarebbe senza le bugie? Migliore? Peggiore? Io non lo so. È per questo che voglio provare a viverla e a raccontarla. Questa decisione non ha nulla a che vedere con l'etica, eh? Non ha nulla a che vedere con un alto concetto del vivere sociale, con la voglia di purezza, menate di questo genere. No, no. È solo che mi piace provare a fare scelte che mi facciano vedere la vita da prospettive diverse. Guardate, non so nemmeno quanto andrà avanti questo esperimento. Quello del dire la verità, dico. So però che in questo momento ho voglia di osservare le cose da questo punto di vista e quindi mi posiziono qui, con questo angolo di visuale. Quello della verità, pura e semplice. Nei prossimi giorni lo comunicherò a tutti quelli che mi stanno vicino, amici e parenti, sempre che non l'abbiano già sentito adesso in diretta. Credo che sia meglio avvisarli, perché anche se è una decisione molto semplice, in realtà i risvolti che porterà nella mia vita saranno decisamente evidenti. L'altro giorno riflettevo però sul fatto che ho bisogno di un punto di partenza, cioè mi serve qualcosa con cui cominciare per convincere anche me stesso che questa cosa da fare è giusta, che ha un senso. Sapete, no? Come si fa quando si comincia una dieta e quindi butti via tutti i formaggi e i salumi che hai nel frigo? Oppure quando decidi di andare in palestra e ti compri tutto l'abbigliamento, tutina, scarpe, borsa e Gatorade. Ecco, un gesto iniziatico. E credo che il miglior punto di partenza sia una confessione. Ho bisogno di liberarmi di qualcosa che ho dentro per sentirmi pronto per partire per la decisione. Ora, è chiaro che non posso confessare tutto ciò che di sporco ho fatto nella mia vita, altrimenti mi ci vorrebbe una squadra di preti mandati dal Vaticano. Ma parlo di una semplice confessione. Ecco, all'inizio avevo pensato di chiamare qui in studio tutti i capi dei lavori che ho fatto in 35 anni e confessare quello che avevo fatto alle loro spalle. Avevo pensato di confessare le cose che non avevo mai detto alle mie fidanzate, ai miei amici, ai miei colleghi. Però non mi sembrava un vero punto di partenza. Poi invece ho provato a pensare alla persona a cui ho raccontato più cose nella mia vita. La persona che mi è stata più vicina. Una persona a cui voglio bene. A cui voglio bene in quel modo in cui si vuole bene alle persone che ti sono vicine da sempre, che quasi non te ne accorgi. E alla fine, la persona a cui è venuto normale pensare per confessare delle cose è mia mamma. Speriamo risponda. Pronto? Mamma? Ah, ciao Matte. Ciao, sono io. Come va? Bene, tu? Bene, bene. Ti disturbo? Come mai? No, stavo leggendo il giornale, figurati. Ti sento malissimo, scusami. Guarda, scusami. Vabbè, comunque tutto bene. Nonna, tutto bene? Sì, sì, sì. Stava dormicchiando, ma aspetta. Ok, ok. Senti, sei seduta quindi? Sei seduta in questo momento? Sì, sì, sì, okay. Sono seduta. Niente, sai che ho cominciato il programma nuovo? Sì. Non stavi ascoltando, vabbè, perché te l'ascolti poi in streaming, meglio così. Ascolta una cosa, guarda, tu prendi le cose che ti dico adesso e poi ne parliamo con calma, magari ti richiamo dopo. Ti devo semplicemente confessare delle cose. Aiuto. Guarda, sono cose proprio semplici, però ho bisogno di dirtele, insomma, poi ti spiego anche perché. Allora, innanzitutto, quando ho fatto il liceo, cioè durante i 5 anni di liceo, in cui peraltro è andato tutto bene, tu ti ricordi, non mi hanno mai manco rimandato a settembre, ho fatto il calcolo prima di venire in radio, io ho bigiato la scuola 37 volte. Giustamente sono cose che non si dicono quando la si fa, però è arrivato il momento di dirtelo. Questa è una cosa. Poi l'altra cosa invece è, ti ricordi che in quarta liceo sono andato con il Fede e Mauro e siamo andati in settimana bianca? Sì. Che siamo andati in treno a Courmayeur. In realtà noi non siamo andati in settimana bianca, siamo andati ad Amsterdam una settimana. Solo che voi, la cosa era andata che voi ci avete accompagnato alla stazione, noi siamo arrivati fino a Vercelli, siamo tornati indietro e siamo andati in treno ad Amsterdam una settimana in gita e basta. Ah no, aspetta, l'ultima cosa è che sai che ti dico sempre che la tua pasta al forno è la più buona del mondo? Ecco, in realtà una volta ne ho mangiato un'altra più buona, mamma, però comunque ti voglio bene. Scusa, ma che cavolo di scherzo è? No, ma sei scemo? Va bene, non ti preoccupare, senti, ci sentiamo fuori onda più tardi. Ciao. Ti mando un bacio. Ciao. Aiuto, mamma. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Non sembra mai liberatorio, Cioè, direttamente già è venuto caldo. Mamma, è sempre un totem. 800240024, l'ultima bugia che avete detto. Un po' come quello che mi scrive: faccio il macellaio, ho appena detto che le salsicce sono state fatte adesso. Perché c'è anche un'altra piccola novità, è che il programma dura un quarto d'ora in più, quindi potete chiamare 800240024 e me la confessate, l'ultima bugia che avete detto. Guardate, se volete non dico il vostro nome, ovviamente vi tengo in incognito, oppure fate come questo che si è firmato, ma non leggerò il suo nome ovviamente, al 349-238-6666. Ultima bugia: alla domanda di mia moglie che mi ha chiesto se ero innamorato della donna con cui l'ho tradita, ho risposta no. Bello questo programma, ecco la mia ultima bugia, la borsa, e poi torniamo in diretta. Io sono qui. Sedici e 33, io sono Matteo Caccia e io sono qui. 349-238-6666-800-24-0024. È da oggi che ho deciso, io provo a dire sempre e solo la verità. Vediamo cosa succede. Intanto arrivano quelli che hanno detto l'ultima bugie. 349-238-6666. Io vendo pompe, ho appena detto che le produciamo in Italia e invece le produciamo in Cina. Mia moglie mi ha chiesto stamani se quest'anno sarei stato disposto ad andare in settimana bianca. Ho detto di sì. Ho detto a mia mamma che gli esami che le avevano fatto andavano bene, non era vero. Da qualche tempo dico a mia moglie che va tutto bene perché mi vede più serio. Insomma, l'amore va per la maggiore. Sono un tecnico commerciale, il mio lavoro si basa su piccole bugie e mezze verità. 800240024, sentiamo invece qual è stata l'ultima bugia che ha detto. Dove andiamo? Bergamo, Roma? Andiamo a Bergamo. Ilaria, pronti Ilaria? Pronto. Ciao, buongiorno, come stai? Ciao, bene. Anch'io, grazie. Senti, posso dirti una verità, visto che siamo in questo tema? Vai, Laria, però poi la dico anch'io, eh? Troppa pubblicità per un minuto di borse. Allora, Ilaria, ora, hai ragione. Oh, là! Solo la verità, però adesso facciamo in modo che la pubblicità sembri più breve. Ilaria, dimmi invece qual è l'ultima bugia che hai detto. Allora, l'ultima bugia che ho detto è anche abbastanza innocente, nel senso che stamattina ho detto non avevo voglia di andare a lavorare, mi sono alzata tardi, ho detto che c'era traffico. Ma tu sono che lavoro fai? Con mezz'ora di ritardo. Io sono psicoterapeuta, pensa un po'. Quindi avevi un paziente che ti aspettava? Non era un paziente, era una riunione di supervisione, quindi non era così grave. Quindi diciamo quella roba importante che hanno di solito le riunioni? Esattamente. Senti, ma tu hai, tipo adesso hai appena lavorato, quindi hai avuto dei pazienti? Sì, guarda, io volevo dirti proprio una riflessione. Perché infatti, perché questo è molto... ne approfitto e poi mi mandi la parcella. Però il rapporto che hai tu con il fatto che le persone dicano la verità quando sono con te, no? C'è una sorta di patto tacito per cui loro ti dicono tutto. Sì, allora io una cosa che ho capito, insomma, in questo grazie all'esperienza lavorativa è che ho imparato a distinguere tra autenticità e verità. Perché cioè? Il concetto di verità secondo me è molto scivoloso, nel senso che soprattutto io ho spesso a che fare con situazioni familiari dove ciascuno racconta la sua verità, no? E quindi che cos'è la verità? Quindi scusami, per autenticità tu intendi uno che è convinto di essere sincero ma in parte non lo è? Ma anche uno che è convinto di dire una balla, nel senso che ci sono dei momenti in cui... Una balla, bello, era sì. dall'82 che non sentivo questa parola, balla. No, scusami. Nel senso, uno che è convinto, che sa, che è consapevole che in quel momento forse non può dire tutta la verità, anche perché anche lavoro con situazioni, diciamo, di persone sì. che sono anche a rischio, per cui a volte non si può dire la verità. Penso a casi di rifugiati che arrivano in Italia. Vabbè, ok, quelli non è certo possibile sono casi. Sempre, no? Senti, però facciamo così, Ilaria, visto che io comincio oggi e non so davvero dove mi porterà questa cosa, io se avessi bisogno ho il tuo numero. Sì. Ok, perfetto, grazie mille Ilaria. Ciao. Ciao, buona giornata. Andiamo da Luca a Udine. Pronto Luca? Eccomi qua. Ciao, come Ciao, stai? Matteo. È questo il punto. Cioè? Cioè, molti dicono come stai, tutto bene, tutto a posto. Invece, ah, certo. È una grande balla, come dicevi tu prima. Parliamo della top ten però, proprio della prima in classifica, Luca. Cioè, quella più detta. Come stai? Sto bene, grazie. Mentre telefonavo ho sentito che lo dicevi, per cui... E allora, Luca, facciamo così. Facciamo così. In 30 secondi, parliamone. Proviamo a parlarne. Sì, 30 secondi però. Devo parlarne io? Certo, nel senso tu mi dici come stai, così così, qual è il problema? I problemi possono essere tanti nella vita, no? Ah, vabbè, certo. Dai più piccoli ai più grandi. Dimmi qual è l'ultimo problema di questa giornata. L'ultimo problema di questa giornata è che mi sono dimenticato una cosa, ho dovuto fare 60 km più o meno in un'ora e mezza per riportarla dove avrei dovuto portarla la scorsa settimana. Buono, però almeno è una roba concreta. Almeno è una roba concreta, non è una cosa campata in aria. Luca, ti ringrazio e passa una buona giornata. Fai il possibile per passarla. Spero, però. Ciao, a presto. Un saluto, sei un grande. Ciao, ciao, ciao. Stiamo a Milano, andiamo da Cesare. Pronto Cesare? Sì, pronto. Come va? Ciao. Bene, benissimo. Ti è piaciuta questa? Benissimo, sì, mi è piaciuta moltissimo. Dimmi che cosa fai nella vita e se hai a che fare, perché è arrivato un messaggio prima di un tecnico che dice che il suo lavoro è basato su piccole verità. In realtà io c'è chi ha i sogni ricorrenti, io ho la bugia ricorrente, vista la mia professione, faccio l'amministratore di condominio, quindi il condomino ansioso mi domanda sempre come va. E io puntualmente gli devo rispondere che va bene, anzi va molto bene. Ma scusami, su un condominio la domanda come va a cosa si riferisce? Si riferisce sempre alle situazioni tra condomini, ma prevalentemente gli aspetti economici, insomma, che in questo momento sono drammatici. Per quello, quindi io, per mettere tranquilli loro, sono circa 2 anni e mezzo che rispondo sempre va bene. Va bene. Ma tranquilli, va benissimo, insomma. Ma l'ultima che hai detto l'hai detta oggi, quindi? No, ho detto, guarda, quando ho parlato con la ragazza centrale, erano passati fino a 7-8 minuti, mi hanno chiamato un condomino a Milano, mi ha detto loro come va pagato il gas quest'anno, a parte il riscaldamento, tranquillo, va tutto bene. Senti, adesso devo farti un'altra domanda, perché sai che la riunione di condominio è la cosa che tutti vedono come un... diciamo non un momento proprio frizzante della propria vita, per cui di solito si dice cosa hai da fare stasera, guarda la riunione di condominio. Tu che di mestiere fai le riunioni di condominio? Mi fa piacere che tu ne rida, Cesare. Tu che di mestiere fai le riunioni di condominio? Cioè, puoi avallare il fatto che è il mestiere più noioso della terra oppure no? No, se sei vissuto male è un mestiere che ti logora parecchio e in realtà il condomino solitamente, la stragrande maggioranza del condomino individua nell'amministratore il nemico, nel vicino di casa il nemico e coglie l'occasione in quel momento per sfogarsi. Scusami Cesare, perdonami, però è una promessa che ho fatto, quella di dire la verità, quindi se tu mi dici che l'amministratore del condominio è un lavoro che ti logora, a me viene in mente la miniera è un pochettino... No, ma se lo vivi male ti logora, se lo vivi male. Tutti i lavori, ma per carità di Dio. Tu quanti anni hai, Cesare? Io ne ho 53 fra un mesetto. E circa. Da quanto lo fai? Sono circa 88 dall'88 circa, quindi Non è poco. No, 12 anni, 98, 12 anni. No, un po' di più, 88, 98, 2008, 22 anni. Cesare, sai qual è la via d'uscita poi, eventualmente, quando sei stufo? Il consulente. Ciao, buona giornata. Anche a te. Alla prossima. Andiamo a Roma da Luisa. Pronto, Luisa? Pronto, Matteo. Ciao, Luisa, come stai? Ciao, bene, grazie. Tu? Io, così, insomma. Sto cercando di capire cosa accade. Allora, io sto bene adesso che sto parlando con te. Sì? Perché almeno ho un modo per raccontarti. Dimmi. Allora, io ho fatto il trasloco l'altro ieri, sabato 4 settembre. Sì. Adesso ci sono via di piccolini, quindi forse ci sono dei problemi. E l'ho fatto, diciamo, in realtà vivevo a 10 chilometri dalla casa nuova. Dove abiti, Luisa? Io abito in provincia di Roma. Di il paese. Le colline laziali. Di il paese. Un bel posto. Come? Di il paese, proprio. Lo devo proprio dire? Ma... Riano... Ok, no, avevi dei problemi a dirlo. No, ok. No, non me l'aspettavo. Quindi cioè, sono andata a vivere a 10 km dall'altra casa, sì. Dove ho vissuto per 25 anni, una casa molto grande con tanti appartamenti dove ci ha vissuto tutta la famiglia. E niente, il distacco in realtà è stato duro. Io sto invece in una casa nuova adesso, molto bella, in campagna, una villa sulle colline. Ma quanti anni hai, Luisa, scusami? 41. Ok, e quindi qual è la bugia che hai detto rispetto a questo trasloco? La bugia l'ho detta a mia mamma stamattina, perché mi ha chiesto come stai, allora nella casa nuova me l'ha chiesto con lacrime agli occhi e io le ho risposto mamma sto bene, e poi sono tornata a casa, mi sono fatta il piantone, e quindi la realtà è questa, che sto male. Okay, sto ma molto questa, male perché è difficile. Ma questa vale, Luisa, queste sono le bugie bianche, quindi questa te la facciamo passare. Dai, goditi la casa nuova, grazie mille, buona giornata. Ciao Luisa, ciao, grazie. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. È il momento delle grandi confessioni qui a Io Sono Qui. Andiamo avanti, sentiamo. Torniamo a Udine ancora. Francesco, pronto? Pronti, buongiorno a tutti. Buongiorno Francesco, raccontami buongiorno. Tutto. Lei ha fatto un'ottima scelta, no? Qua. Nel senso che si è messo in un mare di guai, volendo dire la verità. Perché, Francia? A parte che mi piace che mi dà del lei. Per quale motivo? Perché io ho adottato questo sistema un po' di anni fa e ci ho rimesso l'azienda, la famiglia, perché per il resto del popolo che non dice la verità è impossibile andare avanti, no? Non dicendo le balle. Ma di cosa parliamo, Francesco? Di tasse? Di tutto. Dalla A alla Z. Va bene. Quindi mi dici qual è l'ultima bugia che hai detto? Nessuna, perché non le dico più. Ho Benissimo. Già rimesso tutto, quindi continuo ad andare avanti con la verità. È la fine che farò. Grazie Francesco, buona giornata. Andiamo invece a Giovanni. Giovanni ha scritto l'SMS e dice fa un lavoro per cui deve dire un piccole bugie e mezze verità. Pronto Giovanni? Sì, pronto. Buongiorno Matteo. Ciao. Buonasera Matteo. Buongiorno. Buonasera. Raccontami che lavoro fai esattamente. Allora, io faccio il tecnico commerciale per un'azienda che non dico il nome, non dico neanche il campo. Sì? No, il campo sì, scusami. Diciamo termoidraulica all'incirca. Avevi paura dicendo termoidraulica qualcuno potesse capire? Non vorrei mai che poi mi possano scoprire. Ok. Allora dimmi quali sono le bugie. Aneddoti. Guarda, il primo Vai. Secondo me è stupendo, rimarrà per me nella storia. Era ancora con un'altra azienda. Praticamente avevamo avuto un problema su dei ricambi, che erano dei vetri particolari, che erano dei vetri ceramici. E un giorno mi chiamò il cliente dicendo, ma insomma Giovanni, questi vetri quando li consegniamo qui e là? A quel punto mi si è accesa la lampadina e dissi, cazzo, forse non li ho ordinati, mi sono dimenticato. In quel momento passava alla radio, una radio vostra concorrente, l'aggiornamento del traffico praticamente. Sì. E dissero, c'è stato un incidente nella galleria, nel traforo, non mi ricordo più dove. E in quel momento gli dissi, ma come, ma non hai sentito alla radio o al telegiornale? C'è stato un incidente nel traforo tal dei tali. Insomma, hai colto la palla al balzo. Con dentro tutti i ricambi, il vetro è rimasto dietro bloccato. Quindi, guarda, è tutto rimandato di qualche giorno. Mi piace perché rifà anche la voce proprio Giovanni mentre, guarda, niente. Senti Giovanni, l'altra invece qual è? L'altra è di settimana scorsa praticamente. Ero in ritardo a un appuntamento. E cosa ho fatto? Mi sono fermato con la macchina, mi sono sporcato tutto bene le mani, toccando bene i cerchioni, sono arrivato all'appuntamento e faccio: guarda, scusami, ma avevo bucato una gomma della macchina, non è che è un bagno che mi lavo le mani? Va bene, Giovanni, della serie fidiamoci dei venditori. Grazie Giovanni, buona giornata. Buon lavoro a voi. Ciao, grazie. Alla prossima, l'ultima telefonata, andiamo a Pordenone da Sandro, pronto? Pronto, ciao. Ciao Sandro, guarda, purtroppo devo chiudere, mi puoi dire l'ultima bugia e poi ci sentiamo un'altra volta? Guarda, l'ultima bugia che ho detto, l'ho detta un'ora fa più o meno a mia moglie, in cui l'ho rassicurata, visto che sto andando a fare un esame universitario giù a Milano, ho detto: guarda, sono preparatissimo, ho studiato tutta l'estate, in realtà ho passato metà del tempo, anzi forse più di metà del tempo, a girovagare in internet invece che studiare sul computer. Sandro, grazie. Però mille. Felice, dai. In bocca al lupo, buona giornata. Crepi, ciao, alla prossima. Sono le 16.45, io sono Matteo Caccia, io sono qui e ho deciso sempre e solo la verità. Grazie a tutti, grazie ad Alessandro Genovesi, a Tiziano Bonini, a Vittoria Mussini e a Pietro Lacorte. Vi dico dove sono oggi. Ho mangiato due brioche e un panino con la coppa, ho accorciato la barba, ho discusso con Tiziano prima della diretta, ho confessato le mie bugie a mia madre, ho mandato 5 sms e 7 mail, fatto 4 telefonate, ascoltato ossessivamente questo brano che state sentendo e ho iniziato un programma nuovo, ma soprattutto non dirò più bugie. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?